Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Forse avremmo fatto meno fatica ad avere qui Adriana Lima, ma alla fine ce l'abbiamo fatta perché è tornato Davide Pessina. Ciao Davide. Ciao Carlo, ciao. Buongiorno a tutti. Costan Peterson invece c'è sempre. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Amici sportivi, Davide, un abbraccio. Okay? Coach, sai che corteggiamento a Pessina, eh? Neanche quando era giocatore che doveva prenderlo Milano per un sacco di soldi. Abbiamo cercato, ma lui è andato a Torino a nostro dispiacere, per la verità. Coach, quanto vado giù subito dritto, quanto conta il derby di domani con Cantù? Tantissimo, cioè, probabilmente la gente dirà per la classifica... importanza zero, ma tutti hanno importanza per la classifica, quindi noi cercheremo di dare il meglio di noi domani, assolutamente, cioè contro una ottima squadra, secondo posto, cioè non scopro niente di tutte queste cose. Davide, quanto conta invece secondo te questa partita? Conta per la classifica, perché comunque si avvicina a meno due eventualmente Milano con la vittoria e può giocarsi alla fine in fondo per il secondo posto, che nei playoff può diventare importante, perché andare a vincere la Pianella in un'eventuale semifinale non deve essere facilissimo, e conta secondo me soprattutto per la convinzione, per il morale, per un segnale a se stessi e al campionato che Milano può dare contro come una squadra, come diceva giustamente Coach Peterson, che gioca comunque una buonissima pallacanestro. Coach, con questa partita hai finito il primo giro di orologio, no? Sei arrivato a Milano dopo il mio girone. Esatto. Più facile o più difficile di quanto immaginavi? Più o meno pensavo così, cioè, né più né meno, cioè, sapevo che era difficilissimo ed è difficilissimo, quindi ogni singola cosa, cioè, proprio le squadre che sono dure, cioè, proprio ogni partita le squadre con il beneficio della tecnologia, gli studi che fanno, cioè, tu non riesci più a sorprendere nessuno con niente, cioè, proprio sono preparati nell'ultimissimo dettaglio immaginabile, e quindi niente, nessuno ti regala niente, o deve giocare meglio o non per 40 minuti o non vinci. C'è qualche aspetto su cui hai cambiato idea in questo tuo primo girone? Ma no, guarda, non ho cambiato idea, dico che proprio le partite stesse, noi non abbiamo vinto una partita, ma neanche uno, per tanti punti, tanto per dire, penso la maggiore numero di punti per cui abbiamo vinto contro la prima partita con Caserta, 14 punti, con tutto lo stimolo del nuovo allenatore, quelle storie lì, ma per il resto ogni singola partita una battaglia, c'è, cioè, proprio uno stress, una cosa, cioè, al di fuori ogni immaginazione. Per tu ti aspettavi così il ritorno del coach? Beh, me l'aspettavo sicuramente, l'impatto c'è stato, sicuramente il carisma e la personalità ci sono, credo che anche lui insomma si sia reso conto, come diceva giustamente, che non c'è niente di facile, tutto è difficile, credo che stia lavorando bene, ci sia ancora forse qualcosa da fare sulla continuità, sulla costanza di questa squadra. Davide, assolutamente, noi dobbiamo eliminare le pause, se noi, e questa è ovviamente la continuità, la costanza, riusciamo a fare questo, cioè, allora possiamo pensare a fare qualcosa, ma dobbiamo eliminare proprio i break che facciamo, non si può andare sopra e poi perdere, cioè, non è una cosa ammissibile per me, cioè, tanto per dire. Costo, tocchiamo un altro argomento invece della settimana di ieri, hai scritto una cosa correttissima secondo me sulla Gazzetta dello Sport sulla vicenda Bargnani e sulle critiche di Colangelo, ieri facevi notare questa maledizione della prima scelta assoluta, innanzitutto queste critiche come le valuti? Sono eccessive, non sono eccessive, ha ragione Colangelo oppure no? Adesso tutti ce l'hanno con Colangelo, adesso, okay? Lui non fa altro che gli interessi della sua società, cioè, lui ha emesso un'opinione su Bargnani che non è del tutto positivo, okay? Però questa fa parte del gioco, se posso dire questo, okay? Bargnani è un professionista sotto valutazione sempre, come tutti, okay? Cioè, non è differente questo qui, deve sopportare questo stress a dir poco. Io vedo le cose in maniera diversa, ha pagato lui tremendamente questa storia proprio di essere stata la primissima scelta, perché è stato un anno assolutamente stranissimo per quanto riguarda la prima scelta. Lui se ci fossero state quelle dal liceo di, diciamo, Grego, di tutti quanti, Aldridge e altri, non sarebbe stata la prima scelta, sarebbe stata nona scelta, decima scelta, undicesima, e nessuno avrebbe preteso da Bargnani di mettere la squadra sulle spalle. Seconda cosa, Colangelo ha detto la cosa giusta. Andrea, non è un centro classico NBA, quello che va dentro, presenza in aria, stoppate, rimbalzi, intimidazione, gioco. Non è, questo non è lui. Non lo fa Dirk Nowitzki, ma nessuno ce lo prende con Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki certo. Fa 25 punti a partita e prende anche 12 rimbalzi, ma qualcun altro gioca a centro. Dirk è un'ala grande che tira, Bargnani uguale. Davide, come la pensi? Il rendimento di Bargnani quest'anno sei stato voce dell'NBA, tra l'altro sì. per Sky, l'hai visto tante volte. Chiaramente è in un contesto sbagliato, perché è una squadra, è la classica squadra perdente. È chiaro che ha ragione Cosa, non puoi chiedergli di fare il centro quando lui centro non è, poi dice non prendere rimbalzi, ok, probabilmente non ha leadership, nemmeno tecnica, perché non ce l'hai, forse non ce l'avrà mai. Però quello che sa fare l'ha fatto bene in questa stagione. L'ha fatto molto bene, sicuramente a far canestro lo sa far bene. Io credo che sia legittimo e giusto che si cerchi di farlo crescere in quello che non sa fare. Lui sicuramente non sarà mai un giocatore aggressivo fisicamente come tanti altri, non è un centro. Qualche rimbalzo in più credo sia lecito provare a chiederlo. Io credo che Colangelo in quella situazione si sia anche un po' difeso, nel senso che lui comunque credo sia in scadenza anche lui di contratto. C'è qualche critica sul fatto appunto della prima scelta assoluta di aver preso Bargnani, sul contratto molto alto che gli è stato dato. Io credo che lui difendesse anche un po' il suo posto di lavoro, quindi scaricasse un po' in questo la pressione su Bargnani. Però Bargnani, sono d'accordo con coach Peterson, è un giocatore alla Nowitzki, fa tanti punti con giocatori intorno di un certo tipo, lui può essere quello che fa la differenza, fatto salvo che chiaramente è molto giovane, c'ha molto da lavorare, può ancora molto migliorare su tanti aspetti. Sicuro. Di NBA parleremo poi con Davide qui presente con voi, 800240024, ma per chiudere chiedo un commento al coach sulla situazione che si è venuta a creare nella notte con Chicago e Miami, che con grande fatica si sono, hanno vinto in trasferta, si sono conquistate il match ball, ma queste serie non sono mai state realmente in discussione. Portland invece ha risposto a Dallas, adesso sono 2-1. San Antonio ed LA sempre contro fattore campo, perché hanno perso la prima in casa. Pat Riley ha detto una grande verità una volta, dice una serie di playoff non inizia fino a che una squadra in casa perde. E quindi è successo con le serie lì. Ovviamente le squadre favorite, San Antonio e compagnia, devono ribaltare la situazione per riconquistare il fattore campo, dovendo vincere in trasferta. Sono capacissimi di farlo, l'hanno già fatto, quindi qui non ci piove. Però complimenti a Portland per il colpo che ha fatto, tanto per gli altri colpi che sono stati fatti in trasferta. Io sulla Gazzetta ho cercato di pronosticare 4-5 sorprese, neanche una, ma le altre sono state sorprese. Atlanta, tanto per dire, almeno una partita, ok? Quindi sì. Questa anche la logica nel primo girone, quando ci sono, come l'NCAA, ai primi due turni ci sono sempre sorprese. Coach, grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao Davide. Coach, arrivederci. Grazie a coach Peterson. Adesso ci troviamo per il traffico, poi andiamo avanti a chiacchierare io e Davide Pessina e voi con le vostre telefonate. 800240024, numero verde, i vostri messaggi 349-238-6666. E c'è chi si è lanciato in quattro pronostici azzardati, Nicola. Siena che vince l'Eurolega, Miami l'anello, Italia sul podio degli europei, il Galla allo Star Game 2012. Quanti ne posso prendere secondo voi? Mi sembra molto azzardato quella dell'Italia sul podio degli europei. Gli altri possono essere anche più realistici. Sì, la prima possibile, Siena che vince l'Eurolega, secondo me è una buona chance. Se può fa. Miami possibile, forse un po' meno di Siena. Italia sul podio europeo dovrebbero incastrarsi una serie di eventi particolari, però ci speriamo. E Gallo allo Star Game, più che possibile. Sì. Palla spicchi. Stavo parlando con Davide Pessina, microfoni spenti, vado avanti a microfoni accesi. Ieri sera ho visto, questo è un periodaccio, è il periodo delle occhiaie, questo. ho visto in replica, sapendo già il risultato, Oklahoma-Denver, serie del Gallo. Gallinari, a proposito, visto che ne avevamo parlato prima, la sua prima serie di playoff in carriera nella NBA, e questo va tenuto in considerazione. Non è ancora entrato però in questa serie con Oklahoma City, ma non c'è entrata Denver in questa serie. Fino adesso tutto molto semplice per Oklahoma, soprattutto in gara 2. Gara 1 lottata, con il famoso tap-in discusso di Perkins, probabilmente da annullare. Gara 2 invece è stato un dominio da parte di Oklahoma City, che è una buonissima squadra, ha aggiunto Perkins proprio in mezzo all'area, che difensivamente insomma fa la voce grossa, e quindi permette agli esterni di essere ancora più aggressivi. il Gallo secondo me si trova in questa squadra dove ci sono 5, 6, 7 giocatori che hanno tutti tra sui 25 minuti, 8, 10 punti, tirano tutti bene, lui a alcune partite riesce a spiccare, in altre meno. C'è anche da dire che ha anche tanto da fare difendendo su Kevin Garnett, su Kevin Durant. Non è proprio un lavoro facilissimo. No, complicato. Ti ha sorpreso il ribaltamento del fattore campo nella serie di San Antonio e di Los Angeles? Più di Los Angeles che di San Antonio. San Antonio Memphis credo che sia una serie molto interessante che probabilmente San Antonio riuscirà a far sua, però con fatica. Lakers Hornets, mi sarei aspettato una vittoria più semplice dei Lakers, credo che lo stesso riusciranno ad andare avanti senza troppi problemi, tenendo conto che manca David West e si è fatto male anche Aaron Gray, il centro di riserva, per cui i lunghi Lakers dovrebbero avere abbastanza vita semplice, però se Chris Paul è questo non è così semplice la vita. No, mi pare che in linea di massima la serie di Chicago è chiusa, e la domanda con Boston che ha fatto una fatica pazzesca contro mezza New York, no? Perché di fatto Billups fuori, con praticamente fuori con Carmelo Anthony che ha fatto questa partita cinematografica. Però mi pare che la vera domanda dal lato newyorkese, cioè dal lato della costa est, sia: riusciranno i Bulls a fermare LeBron e i suoi fratelli? Io spero di sì, perché dall'inizio della stagione faccio un dichiarato tifo contro Miami, ma non me ne vergogno. Tiferò Bulls, non sono così convinto che riusciranno a però giocano bene, difendono bene, hanno Derrick Rose che in questo momento è di un altro pianeta, sta giocando una pallacanestro pazzesca, e io ammetto anch'io che in Miami faccio fatica perché gioca male, proprio non mi piace il modo in cui giocano offensivamente, poi se riescono a difendere, recuperare palloni, andare in contropiede, ti saltano sopra e ti passano sopra perché sono atleti pazzeschi, però non mi piace tanto come giocano. La difesa di Chicago invece è una difesa molto solida, andare a vincere una partita almeno allo United Center non è facilissimo, per cui insomma io credo che Miami abbia la possibilità ovviamente di arrivare in finale, però dovrà sudarsela, e Boston per morta non la do ancora. Speriamo. Perché secondo me è quella che a sprazzi in questa stagione ha giocato la miglior pallacanestro a est. Adesso sembrano un po' stanchi con l'infortunio insomma di Shaq che non torna, la cessione di Perkins che era importantissimo. Però è sempre una squadra che se riesce a trovare un minimo di condizione, battere nei playoff è tosta. Bene, d'altra parte l'anno scorso ci hanno regalato quella serie di finale con lei, che è stata la roba più bella che si è vista probabilmente negli ultimi 10 anni. Con Perkins anche, che non si fa male, gioca cara 7, non so come va a finire. Non so nemmeno io come va a finire. Certamente è finita male per noi tutti che l'abbiamo guardata in televisione fino a delle ore. Io personalmente ho vissuto sul fuso orario di Boston e poi di Los Angeles per 20 giorni, una faticaccia infernale. Alberto Davarese, buongiorno. Ciao, grazie per la linea. Dunque io volevo dire una parola veloce sulla partita domenica scorsa a Varese-Milano, dove ha vinto meritando e stracciando nell'ultimo quarto Milano. La domanda che volevo fare è questa, riguarda l'ultimo quarto di Milano. Li ho visti sciogliersi come neve al sole. Ecco, una squadra che ha ambizioni di alto livello, perché Milano dovrebbe avere questo tipo di ambizione. Come può pensare di, sciogliendosi in questa maniera contro una come Varese, che ha giocato bene, però è stato un episodio, una stagione sommato non brillantissima. Di chi? Di Varese? Come può pensare di battere Siena, ecco. Stagione non brillantissima di Varese, secondo me è brillantissima la stagione di Varese, Alberto. Cioè, con questa squadra, con le premesse, i presupposti che c'erano, Varese sta facendo un campionato strepitoso, no? Sì, vista la stagione all'inizio sembrava che potesse andare anche meglio. Poi gli infortuni, una serie di episodi sfortunati e siamo arrivati in fondo, però stiamo riferendo e va benissimo. Ma io in chiave scudetto vedevo più una sfida tra Milano e Siena alla fine. Però mi domando, una Milano che si scioglie così nell'ultimo quarto con noi, come può pensare di andare a portare Siena anche alla quinta partita magari? Intanto sarebbe stato alto riuscisse a vincerne una, cosa che non è accaduta nelle ultime 21 uscite, insomma, quindi quinta partita, settima partita, a me sembra questa abbastanza fantascienza, come abbastanza fantascientifica adesso pensare che Milano possa arrivare in queste condizioni e con questo organico alla finale scudetto. La più facile da pronosticare oggi sarebbe Siena-Cantù, perché sono le due squadre anche migliori, no? Poi vediamo che i playoff sono strani. Milano, Davide, che abbiamo visto 3 giorni prima contro Siena giocare una signora partita, a Varese invece insomma è tornata 2 passi indietro. Sì, infatti è questo il punto di cui parlavamo anche prima. sono d'accordo, se Milano è quella dell'ultimo quarto non può pensare di andare in finale, e soprattutto pensare di battere Siena. Se Milano è quella di per 30-35 minuti la partita con Siena, invece può pensare di giocarsela. E questa è la cosa sconcertante, che Milano aveva anche un atteggiamento fisico, mentale di un certo tipo con Siena, e poi invece con Varese si è sciolta. La prima cosa su cui si deve lavorare, credo, per Milano sia questa: avere sempre la stessa mentalità, lo stesso approccio, la stessa fisicità, insomma, le cose che servono per portare a casa le partite. Detto questo, a oggi Cantù gioca meglio di Milano, cioè le due squadre giocano meglio sono Siena e un gradino sotto Cantù. No, non c'è dubbio. Sei d'accordo con me sul fatto che Varese comunque ha giocato una signora stagione fin qui? Sì, cioè, è vero, cosa, alti chiedi? E bassi, problemi, però i presupposti di inizio stagione erano salvezza è stata, e adesso credo che si tolgano qualche sfizio e abbiano buone possibilità di arrivare ai playoff. È stato un grandissimo lavoro, credo, della società, ma soprattutto di Carlo Recalcati, che in queste situazioni è bravissimo e ha costruito un gruppo solido, e l'ha dimostrato domenica con Milano. Erano più piccoli, più corti, con problemi, hanno avuto più voglia, hanno avuto più energia, hanno avuto più fisicità e hanno portato meritatamente a casa la partita. Sono più piccoli e più corti con tutti, esatto. per scelta precisa, cioè giochiamo in otto e questi sono. È chiaro che il problema grosso, come c'è stato in quella lunga striscia di sconfitte, se si fanno male un paio di giocatori o tre giocatori, con chi t'alleni? Cioè vai a fare amichevole mercoledì a Worcester City. Però stagione più che positiva. Più che positiva. Ma d'altra parte, secondo me, la classifica dice abbastanza la verità. Sì. Dice la verità su Cantù, dice la verità su Milano, dice la verità su Varese. Su Roma, al solito. Bravissimo. Dice la verità su Roma, che deve entrare nei playoff. Tutti diciamo, ok, Roma entrerà alla fine in un modo o nell'altro nei playoff, e quindi alla prossima Eurolega vediamo, vediamo. Sì, perché comunque c'è molto equilibrio. Comunque, tornando a Milano, dà sempre l'idea di essere la squadra sbagliata nel posto sbagliato, e dà sempre l'idea che le pezze siano peggio dei buchi, i rattoppi siano peggio dei buchi. Oggi lo scrive senza mezzi termini, ad esempio, Walter Pedrazzi sul Corriere della Sera, e l'oggetto del contendere, ma è sotto gli occhi di tutti, può essere ad esempio l'Ingrira, può essere ad esempio dato da quei giocatori che dovevano essere le prime punte di questa squadra, e che sono un po' un divaghi, no? L'ha detto anche prima coach Peterson. È chiaro che se dai le chiavi alla squadra offensivamente a Jabari Hawkins, e Jabari Hawkins non arrivano alla doppia cifra, è un problema a vincere. Come valuti le rotazioni di Peterson, Davide? Ma io credo che se abbia fatto questa scelta di far entrare più giocatori possibile nei primi due quarti, soprattutto nel primo quarto, far assaggiare il campo a tanti, e poi a seconda delle reazioni, fatto salvo che Hawkins, Jaber, insomma, rimangono in campo tanto, Maciulis e Mancinelli sono quelli che insomma hanno tanti minuti, gli altri se li devono guadagnare poi avendo l'impatto iniziale. Non è facile avere rotazioni chiare con questa squadra, perché ha talento, ha profondità, però ha discontinuità, per cui non sai mai cosa ti possono dare i vari giocatori. A me sembra il problema un po' delle ultime stagioni: arrivi a un certo punto, in certi momenti della partita o della stagione, dove non sai chi è il punto di riferimento, non sai chi è il leader, non sai chi è il giocatore che ti deve prendere e tirar fuori dalle difficoltà, e soprattutto dare un segnale ai compagni. Sì. Ecco, questo mi sembra che sia spesso il problema. Si fa anche del fantabasket: arrivasse Ettore Messina, quanti resterebbero di questi giocatori? Immagino pochissimi, non tanti, ma non perché sono scarsi, no? Perché sono sfigati, ma quanto perché non si adattano poco alle idee di pallacanestro di Messina. Sì, teoricamente è così, poi credo che bisognerebbe fare i conti anche con situazioni contrattuali varie ed eventuali, però io credo che sì, non sarebbero in tanti. È anche vero che bisognerà vedere Messina se vorrà accettare. Secondo me va in America, ma qui sì, si dice che possa andare in America, sarebbe una grande esperienza per lui. È chiaro che Milano deve in qualche modo deve fare in modo di progettare, programmare, fare un piano dove si dà le chiavi in mano a un allenatore, possa essere, non so, se rimane coach Peterson, chi o chi per lui, Messina, Scariolo, insomma i nomi che si fanno, però lasciare lavorare questo qui con le sue idee, la società dietro a secondarlo e provare a costruire. Sì, soprattutto con la facoltà di scegliere giocatori. Sì, esatto. il vero punto dolente è questo: chi sceglie il giocatore a Milano? No, che poi scusa scelti... Carlo, che siano funzionali a un progetto, cioè non giocatori tipo il migliore che c'è in assoluto teoricamente, se è però chiaro. Poi non serve al progetto, è un giocatore che tecnicamente c'entra poco. Adesso l'Ingrir è facile indicare lui, però l'Ingrir è un giocatore particolare, non so quanto sia funzionale un progetto come quello di Milano, e come lui altri, per cui io credo che si debba cercare di avere un'idea di un progetto anche tecnico e perseguirla. Ci fermiamo, non c'è la borsa? Non c'è la borsa, ci fermiamo lo stesso un attimo e subito dopo torniamo. 800240024, se volete intervenire, poi facciamo un salto in Sardegna, hai voglia? Volentieri, molliamo sempre, sempre volentieri. Molliamo qui tutto e andiamo in Sardegna. A dopo. Palla spicchi. Torniamo con Davide Pessina, qui con me e con Massimo da Savona al telefono. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, volevo fare una domanda. Prego. Io volevo sapere se Cantù, io tengo a Cantù, col piccolo budget che ha, se potrà più prima o poi colmare la differenza con Milano e Siena. Beh, oppure possiamo destinati a rimanere ai livelli della Sampdoria, per fare un esempio calcistico. Come della Sampdoria? Mi pare che Cantù sia secondo in classifica, Sampdoria meno, eh? Lo so, però quest'anno di speranza di vincere non ce n'è. Lei è tifoso genuano? No, io sono tifoso genuano, certo, ma anche di Cantù. C'è dunque il gap con Milano, mi sembra colmato, sì. Perché mi sembra che Cantù sia più forte di Milano domani, vediamo, ma non c'è neanche bisogno di vedere il derby di domani, basta guardarli giocare. Quanto al piccolo budget, anche qui non mi sembra poi così piccolo quello di Cantù, perché trattenere giocatori, allenatori, esatto, questa è la notizia nuova, sì, perché Cantù negli anni ha sempre trovato ottimi giocatori che dopo uno, due anni al massimo andavano via a monetizzare, andare a giocare in altri club che gli davano più contratti, anche più possibilità, sì, di vincere anche a livello europeo. Invece negli ultimi due anni sta tenendo, lui ne lo sta tenendo, vabbè, Mazzarino è ormai è la bandiera, però giocatori che venivano cercati, sì, da tutti sono tenuti, ha prolungato con Trinchieri, per cui direi che da questo punto di vista sono buone notizie. Chiaro che non spendono cifre folli, cercheranno sempre di rinforzarsi trovando giocatori che costano meno da lanciare, però direi che il progetto funziona molto bene. Siena è ancora un passo avanti, però Cantù sta salendo, insomma, sta avendo continuità negli anni e quest'anno si sta proponendo, al di là di come andrà la partita di domani, come la vera sfidante. Sì, ma già l'anno scorso comunque in quel confronto di playoff, sì, non ti dico che sia andata in difficoltà, però ha trovato una squadra che è morta sul campo, poi gli ha lasciato spazio perché ovviamente era più forte, più lunga, più tutto quanto. Però Cantù è l'unica squadra italiana, oltre a Siena, ad avere un progetto ben preciso, sì, che porta avanti negli anni. E ripeto, con non poche risorse, perché certamente inferiore a Siena, però trattenere Mitrov, Markovic, Lunen, eccetera, eccetera, costa dei soldi dopo che sono esplosi l'anno passato. Ti ho promesso che ti portavo in Sardegna. Volentieri, è sempre un piacere. Andiamo a trovare Meo Sacchetti. Ciao Meo, grazie. Prego, buongiorno. Senti, che campionatone stai facendo, dicevamo io e Davide Pessina, con questa Sassari? Ma io non esagerei, perché voglio dire, avevamo una buona squadra, logicamente eravamo tra quelle che dovevamo lottare per salvarci, non pensavamo onestamente di arrivare a salvarci a quattro giornate dalla fine, però la famiglia Mela ha fatto una discreta squadra, perciò sono sempre concreto e onesto quando dico questo. Sì, salvarci, salvati, adesso però c'è qualcos'altro o no? Ma questo, sai, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso ci mancano ancora queste quattro partite, vediamo cosa riusciamo a combinare per vedere di fare magari un altro passettino. Però ci deve essere una risposta da qualche altra parte. Io, non essendo sardo, però non riesco, sì, a capire come mai non si riesca a trovare qualcosa per una squadra che esprime tutto l'appeal di sì, un'isola, cioè, sì, voglio dire, questo è un po' strano, ovviamente, sì, però al momento è così, e poi ti chiederò anche quanto influisce questo sul tuo lavoro che comunque, dicevamo Davide, al di là del fatto della difesa di Meo, beh, è una squadra buona, è vero, ha tre ottimi americani, bravo chi li ha scelti, certo, però comunque matricola al primo anno, vediamo Brindisi, la fatica che sta facendo, probabilmente non riuscirà nemmeno a salvarsi con tanti soldi da spendere. A Sassari sono stati tutti bravi, più di tutti Meo, no? Sì, decisamente, una squadra che sicuramente è una buona squadra, ma buona come tante altre. Ha giocato buona pallacanestro, ha avuto vittorie anche di buonissimo livello, per esempio quella a Bologna con la Virtus, ed è una squadra che gioca bene, una squadra che fa fatica agli altri, nessuno insomma ha vinto facile con loro, a casa loro sono una squadra anche divertente, per cui io credo che meritino esattamente quello che stanno avendo, la salvezza, e soprattutto credo che a questo punto si possano togliere anche qualche sfizio in più. Concordo con me però sull'incomprensione del fatto che non si riesca a trovare qualcuno che possa garantire continuità a questa società che comunque insomma è sempre palazzo pieno, c'è entusiasmo e sta facendo, grazie a me soprattutto, ma anche alla squadra, una stagione davvero eccellente. Certo, Meo, che non è la prima volta che ti trovi in situazioni non semplici, sempre su un'isola, Però si vede che me le cerco, però mi piacciono queste situazioni perché ti danno veramente tanto sotto questo aspetto, perché ci sono molte similitudini sotto questo aspetto, perché a parte le due isole, due pubblici molto caldi che stanno vicino ai giocatori, perciò io penso che da quel che ho visto sia molto importante che anche la piazza accolga bene i giocatori, li ami veramente al di fuori del giocare bene o giocare male, però c'è proprio questo, la gente sta bene, capito? Cioè io sento quelli che sono qua, per dire, da anni, come Vanuzzo, De Vecchi, voglio dire, loro si trovano benissimo al di fuori della pallacanestro, perché è proprio un ambiente in cui si sta bene. È logico che poi il nostro lavoro poi ci può portare dalle altre parti, però sai, quando l'approccio sicuramente con la città e con l'ambiente è positivo, poi i risultati si possono vedere anche di più in campo. Quanti problemi ti sta dando la situazione societaria nel lavoro di tutti i giorni? Allora, ti dico la verità di questo, mi ha chiamato un mio amico giornalista dalla Sicilia, allora ho letto questo e mi ha detto: ma quanto siete indietro con gli stipendi? Perché ormai si parla a questo punto della stagione, senza fare il giro, ci sono delle situazioni molto a rischio. E io gli ho detto: guarda che noi qua a Sassari abbiamo preso tutti i soldi puntuali, cioè capito? Cioè il problema è che la società ha dei problemi, però quando mantiene questi problemi li mantiene fino alla fine, perciò voglio dire, noi non è che abbiamo avuto dei problemi in cui avevamo dei ritardi, hai capito, e allora ci potevano essere gli americani e non gli americani, no, la famiglia Mele è una famiglia perfetta sotto questo aspetto, voglio dire, quindi nessun questo problema. È stato molto importante. Certo, ha fatto dei sacrifici per arrivare a questo livello qua, però pensava, come mentalità loro è questa, se loro danno una parola è questa. Sì, avevano fatto i conti giusti, certo c'è l'incertezza di non esserci magari più l'anno prossimo, o l'anno prossimo che succederà dopo questo supercampionato. Ma sai, loro probabilmente si sono fidati di promesse, e in questo ambiente qua sai che le promesse hanno il tempo che... sono come il vento, le promesse sono come il vento. Sì. Senti, io prima di salutarti ti giro una domanda invece di un ascoltatore via SMS. Mameo, con un progetto serio e imprenditori validi, acquisto di diritti di Lega 2 o Serie A, verrebbe a fare il coach a Torino? Perché lì non ti dimenticano mai. Beh, ma sai, io nella mia carriera non ho cambiato tante squadre da giocatore e tutto. È logico che quello lì è un po' il posto dove io poi ho iniziato a giocare ad alto livello e poi sono andato verso altri lidi. Si va da tutte le parti, guarda, io ho sempre detto questo, siccome ho allenato tutte le categorie, dalla Serie C, dalla B alla 2 e tutto, che uno fa l'allenatore, non è il problema progetto, non progetto, perché... voglio dire, è difficile in questo momento parlare di progetto perché bisogna avere delle certezze, noi vedi che non abbiamo queste certezze, poi dall'altra parte sento sul giornale che Milano spara con le cifre che ha sparato Prodi e voglio dire, noi in Sardegna ci siamo sentiti veramente piccolissimi, hai capito, in queste cose qua, però voglio dire, ci sono delle squadre che girano in una maniera e le squadre che girano in altro. I progetti, voglio dire, ogni tanto si fanno dei progetti, però l'allenatore deve sapere che se vince 4 partite è il più bravo, se ne perde 4 non vale niente, ormai ho capito un pochettino la musica, il discorso dei progetti, ci sono i progetti però ci devono essere le vittorie, non si può fare 3 anni di progetto e fare il primo anno male perché salta tutto, non è questo. No, mamma mia. Io ti adoro perché sei uno dei pochi che dice queste cose, perché è vero, no? Se tutti gli allenatori, anche quelli di calcio, dove vuoi andare a allenare? Ma dove c'è un progetto serio, sì, però se poi arriva le promesse che sono come il vento, si diceva prima, ti saluto, certo. Progetto. Voglio dire, siamo zingari senza certezze, insomma. Comunque, è così, si sa, e quando fai l'allenatore devi capire questa cosa qua. È diverso dal giocatore, però l'allenatore deve sapere che sei uno bravissimo, poi dopo 6 mesi non vale più niente. Io ho visto come hanno trattato Recalcati, voglio dire, questo per me è stato... Cioè, Recalcati è stato un allenatore che ha fatto dei grossi risultati, ha vinto Scudetti con 3 squadre, ha fatto la nazionale, e poi guardavo delle cose e sembrava trattato... Non abbiamo memoria noi in questa storia, perciò accontentiamoci e viviamo com'è. Sì. Romeo, ti ringrazio, ti aspetto qui quando torni dalle parti di casa. La stagione bene, è finita, speriamo più tardi possibile. Ciao. Grazie. Ciao, Romeo. E beh, insomma, siamo zingari con la valigia e altro che progetti, ma ha ragione, no? Molto lucido, sì, soprattutto per quanto riguarda il 90% delle realtà. Poi magari sono quelle 2 o 3 isole felici dove puoi programmare, però... Ma sono l'eccezione. Sono l'eccezione, sì. E lui, devo dire, comunque dove è andato ha sempre fatto molto molto bene. Se davvero Torino avesse voglia di provare a tornare nel grande basket, credo che affidarsi a un allenatore come lui sarebbe un'ottima scelta. E ma poi chiamano anche te, A perché però? Ah, ti chiamo sicuro, voglio dire. A pulire gli spogliatoi. No, ma comunque, progetto o non progetto, bravo chi ha scelto questi americani. White, Diner, Hunter, insomma, sì. tre super americani. Sì. E però poi c'è sempre Meo che li fa giocare nel modo migliore, con l'atteggiamento giusto, con la serenità giusta. Ma quando uno ha sopportato quei livelli Pozzecco, può fare quello che vuole. Sì. Può fare quello che vuole. Davvero. Mi raccontava l'altra volta che era venuto a trovarci qualche tempo fa, insomma, Pozzecco aveva appena finito di una partita, vanno a giocare sul campo da Fortitudo, mi raccomando, dice Meno il time out, adesso ragioniamo, eseguiamo il gioco. Arriva a Pozza, 2 palleggia, resta il tiro da 3 punti, canestro, e poi si indica il petto con le dita. Classico. E allora White, Diner e Hunter sono facili. Ma Meo è stato anche un grande giocatore, sai com'è la mentalità dei giocatori in determinate situazioni, ed è molto bravo a secondarla, ma non è nemmeno uno molle, secondo me quello che deve dirlo dice, i giocatori infatti lo amano, questo secondo me è un segnale. White quanto vale secondo te, Davide? White vale perché è un buon giocatore, ha da migliorare alcuni aspetti del suo gioco, avere più continuità, però è sicuramente una delle scoperte di quest'anno. E domani sarai a Bologna-Siena. Con Sky. Bologna-Siena, partita dall'esito, grosso modo scontato, anche se Bologna si è ripresa. Domenica, ma poi soprattutto ci sarà, prima della partita ci sarà Sabatini, che Giulio Cesare, che entra nel Senato contro i tribuni della contestazione, ha convocato tutti i tifosi contestanti 1 ora prima della partita, e lì ci sarà questo confronto all'OK Corral. Vorrei esserci più che vedere la partita, vedere questo. Ti dico la verità, sicuramente interessante. Sabatini è una persona che può avere tanti difetti, però è anche uno innovativo, è uno vulcanico, è uno che ci mette anche la faccia tante volte. Sì, ma che poi tutto sommato Bologna è dove dovrebbe essere. Bologna dove dovrebbe essere, con qualche caduta che non ti aspetti, qualche picco magari altrettanto inaspettato. È una squadra poi soprattutto che ha anche lì un'idea, c'è comunque il contenimento dei costi, c'è soprattutto meritorio l'investimento nel settore giovanile, bisognerà vedere se riusciranno a tirar fuori poi giocatori davvero ad alto livello, però mi sembra Sabatino uno con idee a volte discutibili, però secondo me è un personaggio che fa bene alla nostra pallacanestro. Spero, non la fate vedere su Sky questo non lo so, sinceramente magari prenderemo qualche immagine da mandare. Non sarebbe male vedere Sabatini nell'arena. Palla spicchi. Piero, provincia di Pavia, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno Davide. Ciao. Ciao. Mi avete fatto sentire degli idoli in panchina. Ieri sentivo Garanzini con Bianchi e dicevano che l'allenatore nel calcio ha un impatto quasi irrilevante. Nella pallacanestro non mi sembra che sia così. E dipende dall'allenatore, dipende dalla squadra. Poi sono varie filosofie, c'è chi sostiene che può diventare un valore aggiunto, ma è raro. Anche ex allenatori o allenatori dicono che in realtà la prima cosa che deve fare un allenatore è non fare dei danni. Sì, per cui insomma, di solito gli allenatori dicono questo. Esatto, sì. No? La prima cosa è non fare dei danni, poi per il resto si vede. No, nella pallacanestro credo, adesso io non so esattamente quanto possa essere l'impatto nel calcio, però nel basket io credo che ci siano ovviamente tanti aspetti psicologico, tecnico, motivazionale. Io credo che però un ottimo allenatore ti possa far fare un salto di qualità. Adesso arriviamo ai massimi livelli. Uh-huh. Per chi ha seguito la serie Panathinaikos Barcellona di Eurolega, secondo me Obradovic lì è stato quello che ha fatto la differenza. Ha portato a scuola Pasquale, che per quanto sia un grande allenatore, già vincitore l'anno scorso dell'Eurolega, però quella serie si è visto Obradovic che quando è così, riesce a allenare così, è un valore aggiunto, per dire. Certo. Oppure in Italia, secondo me, Simone Pianigiani è un grande valore aggiunto, perché Siena ha cambiato tutto, rigioca bene come l'anno scorso, la società ha grandi meriti, i giocatori altrettanto, però la maggior parte del merito secondo me è di Simone Pianigiani. Questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte anche con Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Non mi ricordo più da che parte stai, l'allenatore non deve far danni o quelli bravi sono un valore aggiunto vero? L'allenatore ha più possibilità di fare dei danni che di vincere da solo le partite, nel senso che di vincere da solo le partite ne ha zero, però è ovvio che è un valore aggiunto. Io credo che quelli, e sono tanti allenatori tra questi, che ritengono di poter valutare nell'ordine del 10-15 l'impatto dell'allenatore sul risultato finale, fatto 100, non vadano tanto lontano dal vero. Flavio, una tua valutazione invece sui playoff NBA che stai raccontando fin qui, belli, strada intensi, facendo, eh? Belli, intensi, sì. Interessanti, ancora da leggere. Il primo turno secondo me è molto influenzato dal fatto che ci sono squadre di buonissimo livello che hanno pochissima pressione addosso, penso a Memphis e New Orleans, per cui tutto quello che viene è particolarmente ben voluto e quindi soprattutto all'inizio delle serie possono dare grossi problemi anche a squadre che sono più quotate. Non è un caso che sono arrivate più sorprese lì che non magari dalle serie 4 contro 5, soprattutto dell'Ovest, dove in tanti invece ci aspettavamo qualche colpo subito iniziale. Io e Davide ci interrogavamo sulla possibilità che Boston riprenda vita, quest'anno mi sembra difficile. Ma lì io credo che sia sempre un fatto di energie vere che hanno dentro i super veterani, e i super veterani secondo me non scoprono le loro carte finché non sono proprio costretti a farlo. È ovvio che i Celtics del fine regular season e anche quelli di queste prime due partite possono passare questo turno, forse un altro, poi è difficile pensare che facciano particolarmente altra strada, anzi così non passano neanche il turno successivo. Però ribadisco, è quello che pensavamo lo scorso anno allo stesso momento della stagione. Adesso ci siamo scordati che dopo la terza partita della serie contro Cleveland, onestamente i Celtics sembravano già pronti per il carrello dei bolliti, e poi sono andati a un paio di tiri comodi segnati dal vincere il titolo. Quindi giuria ancora in camera di consiglio. Sì, sono dei grandi gambler, Pes. Sì. Riescono a nascondere così bene, i vecchi di Boston riescono a nascondere così bene le loro carte, ma è quello che ci auguriamo, no, in fondo. Sì, sì, beh, io credo che si riprendono un po', davvero hanno più energie di quello che mostrano. Per chi vuol vincere la Eastern Conference deve fare i conti con loro, e ripeto, secondo me sono tra quelli che hanno giocato a tratti la miglior pallacanestro. Flavio, invece un altro tema: quanto conta per Danilo Gallinari essere alle prime partite in carriera di playoff NBA? Grande approccio a questa serie, no? con Oklahoma, e poi sotto traccia, ovviamente, al di là del fatto che in difesa ha le mani discretamente piene considerando il suo dirimpettaio, però quanto conta essere al primo assaggio di playoff? Io penso che un pochino conti, deve contare, altrimenti non sarebbe umano e non sarebbe un valore aggiunto anche l'esperienza, l'aver già superato i problemi, averci già sbattuto la faccia, che su quel 100 di cui parlavamo prima è perlomeno un 5 se non un 10. Però appunto è un 5/10, il restante 90 è pallacanestro, e secondo me non è un caso che Danilo abbia cominciato a aver giocato il primo tempo di gara 1 dominante. Sì. Lui però non è un giocatore dominante, secondo me, per come è fatto. Può farlo per un quarto, può farlo per due quarti, lo fa anche volentieri, tende a farlo nelle occasioni più importanti e più decisive, però non è quel tipo di giocatore e manca il sistema. Manca il sistema un po' per le convinzioni dell'allenatore, poco e tanto, secondo me, perché se tu spacchi completamente la squadra a metà febbraio, anche se lo fai con molto senso e anche se hai un immediato sollievo, e che tipo di sollievo, e però poi non puoi far finta di essere a livello di quelli che stanno lavorando chi da 8, chi da 10, chi da 30, chi da 50 mesi con lo stesso gruppo, con lo stesso nucleo. Sei di questi anche tu, Davide? Beh sì, sicuramente sì. La conoscenza reciproca si vede che è più recente rispetto ad altri, poi dall'altra parte forse ti può anche dare dei picchi che non avresti avuto magari in altre situazioni, però soprattutto a partite così ravvicinate l'aver lavorato tanto insieme diventa decisivo. Sì, a questo poi il livello di fisicità che evidentemente cresce in maniera... poi diminuisce il tempo in cui hai per pensare, diventa tutto più istintivo, automatico, se non hai queste conoscenze reciproche che ti permettono gli automatismi diventa più complicato. Professore, ti chiedo ancora una tua valutazione sulla querelle della settimana. Colangelo, Bargnani, Colangelo va, viene, resta, non prende i rimbalzi, è un buco, un numero uno deludente. Che cos'è Bargnani? Ma io credo che Bargnani sia un giocatore che paga il fatto di essere stato scelto al numero uno assoluto e quindi l'asticella per lui è più in alto rispetto agli altri. Cosa che è normale, ne è perfettamente consapevole, anche il motivo per cui il primo contratto che ha avuto è stato meglio di tutti quelli scelti dopo di lui al draft e anche il motivo per cui Toronto ha investito così tanto anche col secondo contratto. Io penso che sia abbastanza al di là del fatto di voler naturalmente proteggere i propri compatrioti, che non è la questione principale, ma io penso che se dobbiamo valutare Bargnani come una prima punta di una squadra NBA, io penso che non lo sia, ma non è un'offesa. Però invito sempre, quando pensiamo a Bargnani, a pensare al Gasol di quando era Memphis. Le valutazioni non erano particolarmente diverse, soft, sì, molto tecnico, però non decisivo, quando conta non c'è particolarmente, non ci permette da solo di vincere 40 o 50 partite. Il che secondo me vale per Andrea, che non è Gasol, però soffre secondo me un certo tipo di questa situazione. Per capire veramente che cosa potrebbe essere per gli NBA bisognerebbe metterlo, non dico nei Lakers vicino a Bryant, con Odom e Jackson seduto in panchina, perché questo probabilmente succede una volta ogni tanto, ma metterlo in una situazione in cui non debba per forza essere quello che A, porta la squadra, e B, dimostra ogni volta che veramente hanno fatto bene a sceglierlo alla numero uno. Ho paura che a Toronto, per Andrea e per i Raptors, sia una storia chiusa per questo motivo, perché da questo tipo di dicotomia, di dialettica, non riescono a uscire. Flavio, ti ringrazio, buona Pasqua. A voi. Un abbraccio. Ciao. Grazie Flavio Tranquillo, e noi siamo quasi in chiusura. Senti, ma hai preparato la bandiera per andare a festeggiare lo scudetto del Milan? Beh, io aspetterei, insomma. Lì ti volevo. mica ancora finita, ci siamo messi bene, però aspetterei. Io ho chiamato Danilo Gallinari il giorno prima del derby, no? Ma è intervenuto, quindi pubblicamente. Danilo, chi vince il derby? L'Inter! Vince l'Inter! Certo. Anche lo scudetto dice, ci mancherebbe altro. Campioni di tutto! Campioni di tutto! Ma il Napoli no, tagliato anche fuori. Anche a Denver la scaramanzia si fa sentire. Napoli no, tagliato fuori. L'Inter... Beh, insomma, cioè, adesso Milan ha abbastanza punti di vantaggio da potersi gestire da solo. Se poi si suicida, io credo che insomma avere il destino nelle proprie mani sia una bella cosa. Sì, sì. È la cosa migliore. Domani, esatto. Tra l'altro, vai a Brescia sapendo già cosa ha fatto la concorrenza, quindi situazione. Sì, ma concorrenza ormai lontana. Devi pensare a vincere tu, poi il resto facciano quello che vogliono. Senti, grazie. Grazie a te. Senti, ti dico, torna a trovarci. Volentieri. Poi non mi chiamate, non mi invitate. Ci sentiamo domani, va. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6 per raccontarvi tutto sulla giornata di campionato di calcio. Dalle 5 alle 6, come ogni sabato. A domani.